Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, buon inizio di settimana. Questa settimana iniziamo a Caracalla, sono gli ultimi giorni e c'è una serata speciale, una serata c'è già stata lunedì scorso e si ripete anche questo lunedì con Gigi Proietti, un one man show tra storia, divertimento, risate e soprattutto anche dei personaggi che oramai sono entrati un po' nella storia della nostra comicità come Toto, l'antico romano. Buon pomeriggio Gigi Proietti. Buon pomeriggio a voi. Beh, Toto non è proprio un personaggio dell'antica Roma, è un personaggio di tutte le epoche, insomma. Quindi era inevitabile che andando a fare una serata a Caracalla e raccontando un po' le terme sotto i panni dell'imperatore Caracalla, prima o poi venisse fuori uno che uscisse dalle terme e dicesse quello che dice Toto, cioè questo personaggio che faccio da tanti anni che... se non lo faccio pare che non siano contenti, per cui tanto vale farlo, insomma. Che è un po' un romano svogliato. No, è uno praticamente, questo non l'ho mai detto a nessuno, ma mi successe a me. Io una volta feci una cosa in queste fitness, in queste, come si chiamano? In queste spa. E uscì dopo qualche giorno che facevo queste saune, eccetera, non stavo in piedi proprio, evidentemente io ho una... che ne so, una struttura fisica che non ha bisogno di sudare troppo. Ebbe un calo di pressione. Sì, proprio non stavo in piedi. Allora in scena mi capitò di cominciare questo personaggio che è praticamente nato in scena e si è sviluppato in scena, non a tavolino, insomma, non è stato scritto, è stato scritto dopo. Però molti dei suoi personaggi, no? Come si articola la serata? So che in scena non è da solo, c'è un'orchestra che l'accompagna. Sì, no, ma la serata, l'idea è stata questa, perché io non sapevo esattamente, andando a Caracalla, perché è un luogo per me abbastanza inconsueto, insomma, come non come spettatore, ma come uomo di spettacolo, insomma. Allora ho pensato di cominciare dicendo che io sono Caracalla. Ah, lei si impersonifica quindi nell'imperatore? Sì, tutta la prima parte dello spettacolo io racconto in maniera mia, divertita, non è certo un Alexio Magistralis, per l'amor di Dio, però sono tutte notizie storicamente riscontrabili, ecco, sono... perché noi romani, a me succede anche a me ovviamente, a volte di certi monumenti o resti di monumenti così importanti sappiamo poco. E allora io dico, giocando un po', vediamo di informare cos'erano queste terme. Insomma, se lei pensa soltanto che le terme di Caracalla erano vaste 11 ettari, uno rimane un po' sorpreso, insomma. Dico 11 ettari, non 11.000 metri quadri. Quindi allora io come Caracalla mi racconto un po' di mia storia e questa cosa occupa una gran parte dello spettacolo, all'interno della quale ogni tanto sbuca fuori qualche mio personaggio così. Sì, ma non è che viene assassinato come Caracalla, perché poi Caracalla fece una brutta fine. Quasi tutti, questo, assolutamente. Però almeno ci ha lasciato le terme, no? Che poi fanno da... solo le terme, perché poi questi imperatori rimangono a noi per le loro efferatezze, tutto, però fecero delle cose anche incredibili. Per esempio Caracalla fece l'editto attraverso il quale si dava la cittadinanza a tutto l'impero. La cittadinanza romana era una cosa... importantissima, insomma, dava dei privilegi che non era una cosa da poco, insomma, noi che non riusciamo a dare la cittadinanza ai nostri ospiti che vengono da altri paesi qui, quello con un editto fece, poi era ovviamente un fatto politico perché c'erano degli interessi evidentemente a farlo, però insomma sono situazioni che quando uno le sa, insomma, si stupisce un po', insomma. Quindi tra uno sketch e un altro, un po' tra l'antica Roma e quella lì attuale, Gigi Proietti è in scena da solo con... No, c'è un'orchestra bella grande perché di circa 30 elementi, e poi ci sono un coro parte di questo, del coro, dalla parte femminile del coro, spesso fanno anche altri piccoli interventi o di recitazione. Fra questo coro c'è anche le mie due figlie che si esibiscono in un paio di piccole, una canzone, uno sketch, eccetera. E ma che fa? La sera dopo va al Globe Theater, perché lei dirige pure il Globe Theater. Quello è, diciamo, è il mio fiore all'occhiello, è la cosa che mi rende più orgoglioso, perché è stata una vittoria proprio su, non una vittoria perché non è che abbia lottato per, ma era soprattutto una cosa impensabile 10 anni fa che un teatro dove si facesse soltanto Shakespeare facesse gli esauriti, così come succede già da anni, insomma. E il prossimo anno pensi che già il decennale faremo il prossimo anno. Allora, intanto Gigi Proietti, che ci ricorda anche la figura di Caracalla, ma anche, io lo ricordo, Toto, che è molto divertente, che fa il romano, che fa la sauna, poi, no? Perché sì. Lei sbaglia so volutamente perché. L'accento. Non ho mai saputo perché si sauna invece di sauna, comunque. La sauna. E in un palcoscenico molto particolare, quello delle Terme di Caracalla, ricordiamo l'ultima settimana dell'Opera di Roma, e poi appunto ricordiamo invece l'impegno al Globe Theater, che continua poi fino a settembre. Grazie. Grazie tante, buon lavoro. Arrivederci. Mezzo fatta nasa una. Ma faranno bene sti bagni turchi. Un amico mio è scomparso. Dentro. Allora, noi andiamo al Magna Grecia Teatro Festival, dove si chiude una rassegna con Progetto Odissea, ultima serata, quella di stasera, un spettacolo di Moni Ovadia. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori. Allora, di che cosa parla questo spettacolo? È praticamente, diciamo così, un seguito, un sequel dell'Odissea? Sì, la parola sequel è un po' curiosa. Comunque, questo spettacolo è tratto da questo capolavoro quasi sconosciuto fuori dalla Grecia, anche in Grecia non tanto conosciuto, di Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis, per gli ascoltatori che non lo conoscono, è comunque l'autore del romanzo Zorba il Greco, da cui è stato tratto il celeberrimo film. E niente, ecco, così è una specie di percorso musicale e di parole poetiche e di canzoni a raccontare un aspetto della Grecia neoellenica attraverso una delle sue voci più grandiose, più straordinarie, perché Kazantzakis è stato un immenso letterato, poeta, scrittore, pochissimo conosciuto al di là di Zorba il Greco, e pensavo che questo fosse un gesto culturale, estetico e anche politico nel senso nobile del termine, un momento in cui la Grecia è vista nella maniera più becera, stereotipata. Già è sempre stata vista un po' in maniera turistica, poi adesso con questa cosa della crisi, dello spread, si pensa alla Grecia solo in questi termini, mentre insomma noi dobbiamo alla Grecia gran parte del nostro apparato concettuale. I greci ci hanno insegnato a pensare, a concepire il bello. Hanno inventato la democrazia, tant'è vero che anche in mezzo alla crisi non si è formato il governo e sono andati a votare, hanno rivotato. Senta Moni Ovadia, ma lo spettacolo è ovviamente in italiano? No, lo spettacolo è in greco. Quindi è una cosa mista. Sì, sì, è una cosa mista. Io ho studiato per molti anni il neoellenico, è una mia grande passione, e volevo fare sentire al pubblico anche il suono della lingua poetica, perché vedete, una lingua è un insieme di suono e significato. Noi possiamo tradurre il significato, il suono mai. Cioè una canzone napoletana cantata, le parole di una canzone napoletana cantata in giapponese non sono più quella canzone lì. Allora, intanto una piccola cosa, vorremmo capire che fine fa Ulisse, visto che è il sequel. Ulisse muore, c'è proprio un capitolo che si chiama La morte di Ulisse, ma è un piccolo capitoletto di questi versi, ma è proprio una descrizione lirica, poetica della morte di questo gigante, no? Perché Ulisse è il personaggio che forse è il personaggio che fonda l'idea dell'Occidente, no? Il viaggiatore, il conoscitore, quello che si sfida. E poi diciamo che Kazantzakis riprende Ulisse dopo Itaca e prima di Dante. Dante, in quel famoso, quei famosi versi dell'Inferno, ci mostra Ulisse che va incontro alla sfida delle colonne di Ercole, quindi dei limiti dell'uomo, e moriranno travolto da un'onda immensa. Kazantzakis lo prende prima e lo porta fino a quando Ulisse muore, perché naturalmente, come tutti i mortali, Ulisse è destinato alla morte. Però Ulisse non si ferma a Itaca, cioè il suo scopo non era di tornare dalla pur bellissima Penelope a casa sua, ma quello era il ritorno per ritrovarsi e per poi ripartire, perché il destino dell'uomo, quello vero, sarebbe quello di viaggiare, non quello di consumare negli shopping center. Io sono molto affascinata dal fatto che lei parli del neoellenico come si parla insomma, in inglese o in tedesco, eccetera. Quante lingue sa Moniovadia? L'Yiddish, l'italiano, il bulgaro, forse anche l'ebraico, il neoellenico, le ho dette tutte, l'inglese anche. No, anche il pamastico, anche il russo, lo spagnolo, l'inglese ovviamente lo parlo, il francese e anche mastico un po' di tedesco, ma insomma diciamo parlare, non sono un super poliglotta, però sono curioso, amo viaggiare nelle lingue, perché si conosce un popolo molto più attraverso le lingue che sicuramente attraverso il turismo. Il turismo non ti fa conoscere nulla, invece quando parli con la gente della loro lingua entri in una relazione autentica. Io amo cercare relazioni autentiche, oggi è uno dei pochissimi modi in cui si possa viaggiare realmente. Senta, c'è un verso particolare che è un monito per quanto sta succedendo oggi in Europa? In questo poema, in questo momento, non c'è qualcosa che direi per quello, ma un verso del poeta neoellenico, per stare nello stesso territorio, Yannis Ritsos, che parlando delle lotte degli uomini per trovare se stessi e per conquistare una società giusta, dice che è proprio forse dove un uomo resiste senza speranza che comincia la storia degli uomini. Quindi anche se non vediamo speranza in questo momento, bisogna resistere, resistere, resistere, perché questo vuol dire essere uomini. Grazie a Moniovadia, comunque una voce narrante dei nostri tempi, e fondamentale tutti quanti domani a studiare il neoellenico. Grazie, ricordiamo l'appuntamento brava. Di questa sera, il progetto Odissea e al Magna Grecia Teatro Festival, che chiude questa sera. Quanti giorni di rappresentazioni per tutto quanto il festival riguarda, in Calabria? Per quello che riguarda me sono state 5. Grazie infinite. Grazie di cuore, un caro saluto ai vostri ascoltatori, arrivederci. E noi andiamo a Velia Teatro, sì, è iniziata questa bellissima rassegna in provincia di Salerno e questa sera c'è una particolare trasposizione teatrale di un libro di Armando Massarenti, che è il direttore responsabile del Domenicale del Sole 24 Ore, il fiore all'occhiello, se così vogliamo dire, del nostro gruppo editoriale. Buon pomeriggio Armando. Buon pomeriggio a voi. Questa trasposizione teatrale è tratta da questo tuo libro che si chiama Il lancio del nano. Di che cosa parla questo libro e che come è strutturato lo spettacolo teatrale? Dunque, il libro è un modo per fare della filosofia in maniera che sia percepibile a chiunque. Insomma, si parte da questioni di vita quotidiana, da, che so, lo smettere di fumare o al prendere il caffè una macchinetta aziendale, per parlare di grandi temi della filosofia, di grandi domande. Ora, lo spettacolo è tratto dal libro, il titolo del libro esattamente è Il lancio del nano e altri esercizi di filosofia minima, e lo spettacolo, che ha come regia quella di Claudio Longhi, è uno spettacolo che riprende molto bene lo spirito del fare filosofia attraverso le domande. Si prendono vari brani, gli attori peraltro hanno un atteggiamento interattivo rispetto al pubblico, il pubblico viene come portato in diversi luoghi e a un certo punto viene addirittura diviso, c'è una domanda filosofica relativa alla verità, quindi una domanda molto importante, c'è a un certo punto una citazione di Lessing, il filosofo illuminista del Settecento, che chiede se a un certo punto Dio vi chiedesse sapere. Nella mia mano destra c'è la conoscenza della verità, nella mia mano sinistra ci sarebbe l'impulso invece a conoscere la verità. Cosa scegliereste? E a questo punto il pubblico deve appunto fare una scelta così importante, dividersi, e quindi assisterà a un certo punto a due spettacoli diversi. Ah, quindi insomma si separano a un certo punto. Si separano e poi si ricongiungono. Questa è una trovata molto, molto intelligente, perché fa capire cosa, che a volte significa, cosa significa rispondere seriamente e conseguenzialmente a una domanda in questo caso molto altisonante, molto importante, ma invece lo spettacolo è costellato anche di tante altre domande molto più alla portata di tutti, alla portata, e il senso è quello di far vedere quanto sono vicini appunto alla vita. E come i filosofi possono anche esserci utili, se vogliamo fare anche un gioco intellettuale, non so, per esempio, se io voglio smettere di fumare, uno degli esercizi che io propongo è le differenze tra Aristotele e Platone rispetto alle questioni pratiche in generale, in particolare a questa cosa che ci riguarda molto da vicino, che riguarda molte. Ecco, cosa avrebbe fatto Platone e che cosa Aristotele a questo punto? Dunque, detta in brevissimo, come peraltro faccio, ma qui ancora più in breve, Platone avrebbe detto: se io conosco la virtù, ed è proprio del saggio conoscere la virtù, no, con l'atteggiamento appunto della conoscenza, io so che cos'è la virtù, non potrà che seguire un comportamento adeguato. Se io so che bisogna smettere di fumare, smetterò di fumare, non ci sarà alcun problema. Invece Aristotele era più sofisticato da questo punto di vista, perché diceva: certo, io posso anche sapere che è bene smettere di fumare, ma poi ci sono una serie di questioni, tra cui quella che lui chiamava acrasia, cioè la debolezza del volere, che fanno sì che io non ci riesca, e quindi aveva una visione più realistica, e allora devo mettere in atto tutta una serie di strategie che mi modifichino la mia stessa natura, fino al punto in cui mi verrà naturale non fumare più, quindi acquisterò una sorta di seconda natura. Armando Massarenti, io ti ringrazio, ricordiamo il direttore responsabile del Domenicale del Sole 24 Ore, che noi ti leggiamo, è veramente bellissimo, è il nostro fiore all'occhiello, possiamo dire così. Il 6 agosto il lancio del nano, per capire che la filosofia ci aiuta a vivere, non è una cosa che sta sull'Olimpo, e voi sarete all'Acropoli dell'antica Elea? Che è un luogo assai filosofico, perché era il luogo dove Parmenide e poi quelli della sua scuola, tra cui soprattutto Zenone, famoso per i suoi paradossi, no? Che sulla negazione del movimento, la negazione del tempo, e quindi insomma è una patria importante della filosofia. C'è veramente un mondo da scoprire. Armando Massarenti, Lancio del Nano, trasposizione teatrale del libro all'antica Elea sull'Acropoli per Velia Teatro. Grazie. Grazie. Vorrei morire da sano dopo aver vissuto tutta una vita da malato. E adesso torniamo al Vittoriale, dove si sta svolgendo l'ultima settimana di Teneramente, e abbiamo questa settimana vari appuntamenti, ma vogliamo soprattutto un pochino sapere com'è andata dal direttore artistico Viola Costa e quali sorprese ci riserva ancora questo festival. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, che cosa succede questa settimana? Beh, questa settimana succedono tante cose, e soprattutto succedono cose molto diverse tra di loro. Innanzitutto, questa sera, attesissimo, il clown David Larible, che ci presenta il nuovo spettacolo e che torna al Vittoriale dopo il successo che ebbe un collega clown lo scorso anno, protagonista del Gran Gala di Cirque. Ush Ma Ush ebbe veramente un successo inaspettato di pubblico e di critica. E poi il 9 agosto invece arriva una grande diva, rappresentante di quel divismo degli anni 30-40 ormai perduto, Ute Lemper, che porta il proprio omaggio al tango cantando in 5 lingue diverse i tanghi di autori molto diversi tra loro, quindi da Astor Piazzolla a Brecht, a Jacques Brel. e poi si finisce in bellezza con uno spettacolo di danza con i primi ballerini del New York City Ballet domenica 12 agosto, che vengono a coronare con questo gran galà il Festival del Vittoriale, che è durato, ricordiamo, più di un mese. Avete avuto di tutto: Francesco De Gregori, Pat Martini, Patti Smith, i Buonafista Social Club, Ludovico Einaudi, che abbiamo sentito la scorsa settimana, Samuele Bersani, insomma, è stato Paolo Conte, insomma, avete fatto un boom quest'anno. Sicuramente è stato un bellissimo cartellone, il pubblico finora ci ha seguiti con grande passione e ha testimoniato il gradimento da parte della gente di questa nostra proposta, come lei diceva molto bene, trasversale, che ha dato nel mese di luglio grandissimo spazio alla musica nazionale e internazionale, e che comunque poi attraversa i vari generi, dal teatro con cui abbiamo aperto l'1 agosto, ci piace ricordarlo, con Luca Marinelli, Filippo Timi e Ugo Pagliai, che hanno reso omaggio al padrone di casa Gabriele D'Annunzio, alla danza, al canto appunto di Ute Lemper. Ecco, torno su di lei, perché prima non vi ho detto che il 9 agosto, quando lei si esibisce da noi, è anche l'anniversario del volo su Vienna, di cui fu uno dei celebri protagonisti D'Annunzio, con il suo lancio di volantini sulla città di Vienna, e noi avremo una rievocazione di questo gesto d'annunziano con 7 biplani storici che sorvoleranno il Vittoriale poco prima dell'inizio dello spettacolo, lancio di volantini a replicare appunto il gesto di Gabriele D'Annunzio. E poi Ute Lemper è stata molto disponibile e ha inserito in scaletta un paio di brani in omaggio a questa ricorrenza. Quali sono questi brani? Lili Marlène senz'altro, e poi c'è una sorpresa che non ha voluto rivelare nemmeno a noi. Lili Marlène, che ricordiamo è un brano reso noto durante la Seconda Guerra Mondiale, ma in realtà scritto sul testo di una canzone scritta durante la Prima Guerra Mondiale. E poi diciamo, insomma, che quindi il Vate è sempre presente, no? Con queste atmosfere un po' d'annunziane, visto che... Sicuramente il nostro impegno è stato quello di riportarlo protagonista di questo cartellone, a partire dal nome del festival, questo Teneramente, che è una citazione, perché è un gioco di parole con cui appunto lui scherza in una lettera a Olga, una delle sue donne. Allora, ricordiamo quindi l'ultima settimana di questo Teneramente, di questo festival al Vittoriale, che si apre questa sera con David Larib, il clown, ma come ci ha detto appunto Viola Costa, la direttrice artistica, con Ute Lemper che interpreta Lili Marlène, insomma, una grande sfida su la Dietrich, no? Perché poi è difficile eguagliare una grande diva. Ringraziamo allora il direttore artistico Viola Costa, e vi ricordiamo che anche per questa settimana ci sono molti appuntamenti al Vittoriale a Brescia. Vor dem großen Tor steht ne Laterne und steckt sie noch. E adesso noi andiamo in una località splendida, una città incredibile, Bolzano, dove si svolge un festival importantissimo di musica classica, e che è nel vivo e che ci sarà addirittura fino al 29 settembre. Il coordinatore del Bolzano Festival è Peter Paul Kainrath. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, cosa succede? Avete aperto la scorsa settimana, questa settimana anche molte novità, a cominciare da domani, dove ci sarà Dialogos, giusto? Una rassegna dedicata alla musica antica e barocca, in una cornice come Bolzano, sarà un sogno. Funziona da Dio, ha ragione. Siccome lei ha ben spiegato, questo Bolzano Festival Bolzano è l'insieme di 4 partner d'eccellenza, tra cui anche il Concorso Busoni, l'Accademia Gustav Mahler, le orchestre giovanili, e anche il Festival Antica, Antiqua, che presenta musica antica da oltre 20 anni, e loro proprio domani si presentano con questo famosissimo ensemble Confraternita dei Musici, nella Tema Riccio, un luogo di grande tradizione in questa città, e fa già capire quanto grande sia questo orizzonte estetico, stilistico di questo festival, incentrato sulla musica classica, però con questo denominatore comune, che accomuna tutti, musica e gioventù. Veniamo a cosa succederà domani. C'è un celebre violinista, Enrico Gatti, insieme alla confraterna dei musici e dell'Accademia Hermans, giusto? Che tipo di musiche si suoneranno? Quali sono? Corelli, vedo, insomma, quali sono i maggiori... Ma loro spaziano un po' tra tutti gli autori. Chi conosce la confraternita dei musici si sono specializzati praticamente anche in delle ricerche filologiche. Loro qui presenteranno un programma che sarà un po' uno specchio di questo trasporto culturale dalla Puglia a Napoli. Allora, è anche molto importante sempre far capire al nostro pubblico che non si tratta solamente di concetti, ma anche proprio di storia, storia di cultura, storia di persone vissute nella storia, vissute o vivendo anche nel contemporaneo. Dove si svolgono i concerti? In tutta la città? Oppure in tutta la città ci sono posti nuovi, per esempio nel nuovissimo, bellissimo museo, il Museo d'Arte Contemporanea e Moderna di Bolzano. C'è il Castel Mareccio, come abbiamo appena sentito, il concerto di domani. Abbiamo inaugurato il festival davanti a 1300 persone nel parco semirurale, in un quartiere di Bolzano che di solito con la musica non è così, diciamo, va a braccetto, con la musica classica. Poi noi, ovviamente, teatro comunale, l'auditorium, Haydn, poi ci spostiamo anche fuori, per esempio. Piazza Walter, no, a Piazza Walter. Piazza Walter, quest'anno non abbiamo la musica, però comunque metteremo un segno molto forte, che è un'installazione di due pianoforti di un'artista tedesca, si chiama Finalist, ed è un omaggio al concorso Busoni, e mette due pianoforti che gareggiano tra di loro, diciamo. Ecco, nominavo Piazza Walter perché, per chi non conoscesse, Bolzano è la piazza principale, per cui magari quando si arriva, no, si cerca subito sì. qualche cosa nella piazza principale. Allora, quindi i concerti si svolgono in varie parti e sono generalmente la sera, a che ora? Di solito alle 20:30, tranne i concerti di musica antica che iniziano tutti alle ore 21. Informazione, se lo posso dire, si trovano tutti su www.bolzanofestivalbozen.it o anche prevendita presso il Teatro Comunale di Bolzano, cioè siamo connessi col resto del mondo, e io chiedo che tutti voi venite numerosissimamente. Per scoprire tanta musica, tanta buona musica e questa splendida città, ringraziamo Peter Paul Kairat, coordinatore del Bolzano Festival Bozen. Grazie. Tante grazie, buon ascolto a tutti, grazie. E noi vogliamo chiudere Summertime di oggi ricordando una figura storica per la cultura italiana, colui che inventò l'estate romana, Renato Nicolini, assessore alla cultura al Comune di Roma dal 76 all'85 nelle giunte di sinistra, ci ha lasciato all'età di 70 anni. Nel 77 ideò la rassegna cinematografica alla Basilica di Massenzio, il Festival dei Poeti a Castel Porziano e tanto altro ancora. Fino ad allora, durante l'estate, le città erano fantasma, non c'era nulla da fare. Dopo l'invenzione di Nicolini, non solo Roma, ma tutte le città italiane hanno iniziato a vivere d'estate, con rassegne, festival, teatro all'aperto. Da parte di tutta la redazione di Summertime, un sentito grazie a Renato Nicolini. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.